Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Il ministro della giustizia Paola Severino sembra voler rilanciare l'opportunità di confinare i mafiosi nelle ex supercarceri dell'Asinare di Pianosa, chiuse nel 1998. Nelle due supercarceri sono stati rinchiusi boss del calibro di Tutor Riina, Raffaele Cutolo, Francis Turatello, Renato Valanzasca e Matteo Boe. In questo modo, ha spiegato il ministro nel corso dell'audizione in commissione parlamentare antimafia, il 41 bis, vale a dire il carcere duro, sarebbe davvero duro. Fosse per me, li metterei su isole galleggianti. Fatto sta che il ministro della giustizia ha confermato la necessità che la norma mantenga l'attuale conformazione e ha spiegato che occorre una seria riflessione sull'opportunità di riaprire le strutture dell'Asinare di Pianosa, se questo non comporta spese di ristrutturazione troppo elevate. In particolare Pianosa, per la sua configurazione, secondo il ministro, si presta da un lato ad ospitare un elevato numero di detenuti e dall'altro a garantire la loro separazione. Ora, devo dire come la penso. Prima di lei ci avevano provato a rilanciare l'idea l'ex ministro Roberto Castelli e di recente Angelino Alfano. Buco nell'acqua per loro e, vedrete, anche per questo ministro. Mi sembra infatti più un effetto annuncio che strappa il plauso di una parte che non l'impegno che viene condiviso da tutti. Ergo, in questi pochi mesi di fine legislatura il proposito resterà sulla carta. Peccato, perché già il PM antimafia della DDA di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, il 31 ottobre 2008, nel corso della trasmissione Viva Voce a Radio 24, chiese di riaprire le carceri di Pianosa, Gorgona e Favignana, accompagnando la permanenza dei boss con direttori di istituto preparati e un corpo scelto di agenti. Il giorno prima la stessa proposta, dettaglio più, dettaglio meno, l'aveva lanciata il parlamentare del PD Beppe Lumia, ex presidente della Commissione Nazionale Antimafia.